In questo mercoledì 14 marzo uno sguardo ai titoli. Monti Merkel, patto anticrisi, così titola Il Sole 24 Ore, che tra l'altro oggi vi segnalo ha un secondo dossier molto approfondito sulla riforma delle pensioni, la guida alle pensioni, cosa cambia e come cambiano anche i calcoli, per esempio, per le vostre pensioni. Corriere della Sera, lavoro, fondo per lasciare prima, la bozza, ritiro anticipato di 4 anni a spese delle aziende. Per Repubblica, la Fornero attacca i sindacati. La Stampa, Monti Merkel, asse anticrisi. Libero, schiavi del fisco, tassassini. Questo è il titolo a caratteri cubitali. Il Messaggero, Fornero sfida i sindacati. Per il Fatto Quotidiano invece ancora la vicenda dell'Utri, tutte le bugie della requisitoria. Sulla riforma del mercato del lavoro anche l'Unità, paccata di governo, il termine più utilizzato ormai, questo paccata, no? Riferito alla paccata di miliardi, come ha detto il ministro Fornero. Il Manifesto invece lo titola così, proposta indecente, soldi per gli ammortizzatori sociali non ci sono, ma la ministra Fornero abbandona ogni sobrietà e minaccia senza il sì dei sindacati sulla riforma del lavoro, niente paccata di miliardi. Il Giornale invece, su un voto al Parlamento di Strasburgo che chiede il riconoscimento delle nozze omosessuali in tutti i paesi, titola così: hanno vinto i gay, l'Europa è loro. E mentre Avvenire, ora saper crescere, Monti e Merkel rinsaldano l'asse. Dunque questi sono i temi, almeno da titoli di prima pagina. Io intanto voglio dare un aggiornamento. Ieri abbiamo raccontato la storia di questi consiglieri comunali a Genova che si presentavano, rispondevano presente alle commissioni. Il caso soprattutto di Aldo Praticò del Popolo della Libertà è stato evidenziato dalla Repubblica. Si presentava in commissione, stava un minuto e mezzo, il tempo di rispondere all'appello, e incassava così 97 euro di gettone perché risultava presente per tutta la seduta. Oggi c'è la puntata bis a pagina 19 di Repubblica. A Genova scatta l'epurazione per i furbetti del gettone. Raffaele Niri racconta: fine della carriera politica per i furbetti del gettone, una dopo l'altra le segreterie dei partiti impegnate a concludere le liste in vista delle elezioni comunali del 6 e 7 maggio confermano che i protagonisti dello scandalo denunciato da Repubblica non verranno ricandidati. Ecco, quindi un primo effetto, si può dire in questo caso benefico, di questa inchiesta. Nei primi 5 della hit parade delle apparizioni lampo in commissione, consiglieri che si fermano pochi minuti e scappano, a meno 4 non verranno confermati dalla loro lista. Il partito maggiore, il PD, annuncia che oltre la metà dei suoi consiglieri sarà cambiata, mentre da subito scatta un codice di autoregolamentazione. Se per qualsiasi motivo un consigliere del PD dovesse assentarsi, chiederà subito di non percepire alcun gettone di presenza. Anche se accanto a questa storia c'è il commento di Sebastiano Messina dal titolo «Pronti per Roma!». Il signor Aldo Praticò si è conquistato di prepotenza un posto nel Guinness dei primati, è il consigliere comunale con la più alta tariffa a tempo. È suo record raccontato da Repubblica, un gettone da 97,61 euro guadagnato partecipando per un minuto a una commissione. Ed è una fortuna per il comune di Genova che i gettoni non scattino col tassametro, altrimenti Praticò avrebbe guadagnato con questo ritmo 5.820 euro l'ora, 46.560 euro al giorno, 1.210.000 euro al mese. In compenso, il lesto consigliere ha guadagnato in 60 secondi quello che metà degli italiani non guadagnano in un giorno. Non c'è che dire, è un perfetto politico italiano. Se lo scopre Scilipoti, ce lo ritroviamo a Roma. Così Sebastiano Messina su Repubblica. La seconda storia che vi voglio dare prima e raccontare prima della pubblicità la trovate su Libero a pagina 20. Attenzione, cari mariti o cari mogli che vi separate, cari coniugi, e che magari avete la fortuna, sfortuna di sbancare il Superenalotto. Disoccupato vince la lotteria e gli tocca pagare la ex moglie. Salvatore Garzillo racconta la storia di un uomo che era stato dichiarato incapace di mantenere la famiglia dopo la separazione. Ma poi, che è successo? Ha fatto il colpo al Superenalotto? E allora i giudici hanno cambiato idea. viene dalla corte di Cagliari, dalla corte dei giudici della Cassazione, sono arrivati a stabilire in realtà questa decisione imposta dal Tribunale di Cagliari, secondo la quale nella buona e nella cattiva sorte, così ironizza Salvatore Garzillo su Libero, i giudici della Cassazione hanno preso proprio la lettera, la promessa solenne che accompagna Merite Moglie all'altare, perché la Corte della prima sezione civile ha stabilito che in caso di vittoria alla lotteria, eccola qui la buona sorte, all'ex coniuge spetta una parte della vincita, ed ecco la cattiva sorte. Un povero, tra virgolette, vincitore del Superenalotto si è aggiudicato 1.800.000.000 di vecchie lire. L'uomo così è stato costretto dal Tribunale di Cagliari a corrispondere un assegno di 115 euro alla ex moglie e 500 euro al figlio diciottenne non ancora indipendente economicamente. Vabbè, però dai, una piccola cifra, insomma. C'è un però, insomma, questa vittoria della lotteria, nonostante lui fosse stato giudicato impossibilitato a versare il mantenimento per la precedente famiglia, la vittoria della lotteria ha rimesso tutto in discussione. Insomma, questa somma caduta dal cielo ha posto in secondo piano lo stato di salute e, visto che sono arrivati questi soldini, decade l'impossibilità di versare il mantenimento per la precedente famiglia. Ma io non ci vedo nulla di scandaloso, sembra abbastanza giusto. Poi 115 euro alla moglie e 500 al figlio. Neanche tantissimo, Vabbè, ci fermiamo 6 minuti. Chic è il modo più raffinato di essere. Eco Chic è anche quello più intelligente. E avere più autonomia con oltre 1400 km. E spendere solo 23 euro per un pieno. Y Musa e Delta Eco Chic con GPL al prezzo del benzina. Lancia, be fuel, be Eco Chic. E solo a marzo gamma Y tua da 10.950 euro con clima e start and stop inclusi nel prezzo. Dati riferiti a Y. Offerta valida fino al 31 marzo con usato anche da rottamare. Pronto, sono Michael, il suo broker assicurativo. La polizza? Ah, sì, la sto ricopiando. Una per la nonna? Vediamo. Via fax. No, passo io. Ti mancano gli strumenti giusti? Stampanti multifunzione Brother. Copiano, stampano, scansionano e inviano fax. Tutto in uno. Tu pensa al lavoro. Noi facciamo tutto il resto. E se acquisti una stampante multifunzione Brother, ti regaliamo una macchina da caffè Nespresso. Regolamento su promobrother.it. Obblighi ministeriali assolti. Siamo stati alluvionati. L'azienda era compromessa. Fiume di fango, detriti. Altezza 1 metro. 150 motori distrutti. L'assicuratore mi dice chiama la Belfor. Grazie anche a loro. Non c'è più traccia di quello che è successo. Belfor è leader nel recupero dopo alluvioni, incendi e inquinamento. Ha creato PIA, pronto intervento azienda. Priorità di intervento in 24 ore e formazione del tuo personale. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro? Scegli Belfor. Immagina la sabbia fina. Fina. Perché immaginare una vacanza quando puoi andarci? Con i GoGo Days di Alpitour Franco Rossi Villaggi Bravo, se prenoti entro il 31 marzo risparmi fino a 700 euro a coppia. Vai su deciditi.it e corri in agenzia. Aldo, che fine ha fatto il cliente? Il cliente? Ma sì, il solito, quello basso con l'accento milanese, quello che voleva lavare tutto. Ah, il cliente! Lo sto centrifugando, non ho saputo dirgli di no, lo sai come sono. Gli ho fatto un lavaggio completo. È la terza volta che gira in lavatrice. Tiratemi fuori da qui, aiuto! Passa Wind, con All Inclusive chiamate e messaggi verso Wind e internet senza limiti di tempo a soli 3 euro a settimana per 2 anni. Promo per ricaricabile attivabile entro il 29 aprile. Info e condizioni su wind.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Ottime notizie per quanto riguarda il tempo. Ci attende una giornata primaverile in gran parte d'Italia. Solo al sud potrà transitare ancora qualche nuvola di tanto in tanto, soprattutto nella prima parte del giorno lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di pioggia alternata ad ampie zone di sereno. Per il resto, ripeto, alta pressione e bel tempo e soprattutto temperature in ulteriore rialzo, più sensibile nelle regioni meridionali dove finalmente si attenuano le correnti fresche che hanno insistito nei giorni scorsi. Comunque in tutta Italia si starà bene, addirittura al centro-nord arriveremo anche a toccare, forse superare, i 20 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it. Con questo è tutto. Siamo qui alle 7:35 minuti. Allora, la giornata politica ieri si fa notare per alcuni aspetti. Beh, intanto Monti ha incontrato Angela Merkel insieme al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Trovate tutti i resoconti della visita a pagina 3 del Sole 24 Ore. Di fatto sia Monti che la cancelliera tedesca hanno convenuto che è superata la fase di critica più forte. È stato siglato questo patto Roma-Berlino per lo sviluppo. Certo, però, Monti ha ribadito non è il caso di rilassarsi per quel che riguarda la crisi. Certo, passata la fase critica, ma non abbiamo ancora finito i compiti a casa, no? Ricordate che quando Monti incontrò la prima volta la Merkel usò questa espressione, no? Dobbiamo fare i compiti a casa per superare la crisi. Li abbiamo fatti, ma non abbiamo ancora finito i compiti a casa. Però la notizia più interessante di politica è legata alla questione della riforma del mercato del lavoro. Allora, vi verrebbe da dire e da fare questa domanda. Vi piace questo ministro Elsa Fornero? No? Questo metodo che viene oggi scandagliato un po' da tutti i giornali, il metodo Fornero, no? Questa frase che sicuramente rompe tutti i vecchi schemi delle trattative, dell'arte del trattare, del modo di fare compassato, un passo di qui, un passo di là, ascoltare tutti, poi parlare, poi cercare di mediare. Ha detto, va bene, ma se non c'è il sì dei sindacati non mettiamo mica lì una paccata di miliardi. Questo termine paccata è diventato l'hashtag del giorno ieri, per esempio, su Twitter. Io dirò una cosa scomoda, a me piace questo metodo, insomma, però è chiaro, è un po' il metodo della maestrina, così l'hanno indicata. Guardate per esempio Paolo Griseri su Repubblica: basta signora maestra, troppi compiti a casa, dare i voti a Elsa Fornero è una di quelle soddisfazioni che molti vorrebbero togliersi. Perché la maestrina, come l'ha chiamata un giorno un sindacalista facendola arrabbiare parecchio, abituata a sistemare gli interlocutori in ordine decrescente a seconda del merito. Così la trattativa di Palazzo Chigi è anche un incontro scontro di mondi, culture, storie personali, l'Italia in un solo tavolo, dal banchiere all'imprenditore dell'acciaio all'operaio, e di fronte lei una signora che sembra darci compiti a casa, racconta divertito un esponente della delegazione sindacale. Sapete, per esempio, scrive Paolo Griseri poi all'interno a pagina 2, come ha risposto una volta a un vertice al capo delle banche, Mussari. Al primo incontro, sentite qui, Giuseppe Mussari aveva osato chiederle quanti soldi il governo intendeva investire nella riforma. La risposta della Fornero è stata: dottor Mussari, lei è uno di quegli studenti che vogliono conoscere il voto prima di aver dato l'esame. Insomma, avete visto, il tavolo della trattativa, la professoressa spiazza tutti, tanto che ora i sindacalisti dicono confidiamo in Monti, cioè vedono in Mario Monti il salvatore. E sta di fatto che Davide Colombo racconta tutti i dettagli a pagina 11, i temi sul tappeto sono quelli legati agli ammortizzatori sociali, al nodo delle risorse, all'apprendistato, la flessibilità in entrata, in uscita, i centri per l'impiego, ma di fatto il ministro Fornero ha detto questa frase che davvero rompe un po' tutti gli schemi, no? In cambio di un accordo più avanzato è chiaro che se uno comincia col dire no, perché dovremmo mettere lì una paccata di miliardi e dire poi diteci di sì? E no, non si fa così. E quando con quel non si fa così si notava quasi proprio il dito indice un po' da maestrina puntato. No, no, no, non si fa così. Siete contro, niente paccata di miliardi. Ecco, così sintetizza tutto il Corriere della Sera nel titolo a pagina 8. Il manifesto è molto duro nell'accusare, è una proposta indecente. A pagina 2 il pacco c'è, la paccata no. La ministra Elsa Fornero ricatta i sindacati, o dite sì o niente paccata di miliardi, ma mancano sia le cifre che le voci da cui prenderle. Se c'è un accordo più avanzato mi impegno a trovarle, così ha detto Elsa Fornero. Certo, è critico Bonanni, fa un'intervista all'Unità di 2 pagine, pagina 4 e 5, se il governo continua su questa strada salta tutto, ed è questo che irrita secondo me soprattutto i sindacati, una persona che rompe tutti gli schemi delle lunghe trattative che finora sono stati usati con questi toni perentori, no? E sentite allora Bonanni, parlare di soldi senza aver stabilito prima quale sia il sistema che si adotta mi pare la storia di quello che si preoccupa di accumulare denaro senza sapere cosa compra. Che cosa si vuol fare? Questo è il punto, dice Bonanni, che poi aggiunge: mi auguro che il governo non continui su questa strada, altrimenti salta tutto. Devono stare attenti, perché dopo la riforma delle pensioni imposta brutalmente, e ripeto brutalmente, se salta anche questo tavolo non sarà facile rinsaldare la frattura. Così Bonanni, che dice: io sono stato sempre uno dei più concilianti, ma su questo davvero così non va bene il metodo. Allora, vi piace il ministro del Sapornero? Col suo metodo, così, qualcuno dice da maestrina, qualcuno dice da chi sa bene ciò che vuole e trova i metodi per ottenerlo, con le buone o con le cattive. L'altro tema invece è quello del fisco. Fisco che torna nell'occhio del ciclone, soprattutto per due fatti. Dopo che il capo della Corte dei Conti, il procuratore generale della Corte dei Conti, fa sapere che c'è una pressione fiscale in Italia esagerata. Beh, certo, arriva da buon ultimo come analisi, un po' ce ne siamo tutti accorti. Non è che ci vuole il bollino della Corte dei Conti. Libero titola in maniera molto dura: tassassini. La Corte dei Conti scopre che siamo tra i più tartassati al mondo. Vabbè, il direttore Maurizio Belpietro nel suo editoriale scrive: in pratica la Corte dei Conti scopre l'acqua calda, però di fatto lo certifica. La seconda, a dura accusa, molto, molto forte, è il garante della privacy, Pizzetti, e qualcuno ha fatto notare il garante della privacy che è in scadenza, cioè a metà aprile ha finito il suo mandato e forse anche per questo è più libero di dire ciò che pensa. Ha detto: attenzione, questi nuovi strumenti usati da Equitalia, anche nel decreto sviluppo Italia, per esempio il controllo dei conti correnti, il metodo Serpico, questa invasività nei controlli, è un qualcosa che non va bene, perché è tipico, ha detto, dei sudditi e non dei cittadini democratici essere considerati dei potenziali mariuoli a prescindere. E allora privacy, il fisco sotto accusa, così titola Il Sole 24 Ore a pagina 23, forti strappi allo Stato di diritto con i nuovi sistemi che devono essere un'eccezione, ha fatto capire Pizzetti, perché è proprio da sudditi essere considerati dei potenziali mariuoli. Bella questa frase, molto molto efficace. E poi Pizzetti ha detto anche: attenzione alle liste di buoni e cattivi, le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, attenzione alla gogna mediatica, pericolosa, i media siano custodi delle regole che essi stessi si sono dati. Sulle intercettazioni auspico che presto sia adottata una normativa sull'uso dell'intercettazione dei dati telefonici. Ha fatto un po' il punto ovviamente a 360 gradi, era proprio la presentazione di un bilancio dei suoi 7 anni da garante della privacy. Sta di fatto che Attilio Befera, fa sapere il Corriere della Sera, pagina 3, va avanti. Sembra un po' una lotta, no? Di un super ispettore in lotta contro il fisco. Sentite per esempio che cosa ha detto il politico Gianluca Galletti dell'UDC. La lotta all'evasione non è un'emergenza, ma una guerra. E in guerra si possono usare armi non convenzionali. Sappiamo benissimo che quelli fiscali sono dati sensibili, ma il problema non è acquisirli quanto proteggerli bene e verificare che uso se ne fa. Insomma, avete sentito, siamo in guerra e quindi in una guerra a tutto campo si usano tutti gli strumenti, anche quelli non convenzionali. Sembra un po' la linea anche di Equitalia, di Attilio Befera, che effettivamente fa sapere è una fase di emergenza, e nell'emergenza o nella guerra, usate come volete il termine, si usano tutti gli strumenti. La politica ovviamente si interroga anche alla vigilia del vertice Monti ABC, Alfano, Bersani, Casini. Questa volta pare non salti questo vertice fissato per domani, pare si parli anche di giustizia, pare si parli anche di Rai. Certo, uno, guardate, lo dico come battuta ma non troppo, legge l'intervista a Maurizio Gasparri su Repubblica, legge il titolo a pagina 6: questi tecnici hanno troppa spocchia, ora stiamo tornando noi politici. E su questa frase, stiamo tornando noi politici, viene da dare la linea alle informazioni sul traffico. Poi uno legge anche sui giornali quello che ieri l'ex ministro all'interno Roberto Maroni, esponente della Lega, ha detto era all'università di Varese in Subria, nella sua Varese, e Sentite cosa ha detto Roberto Maroni a proposito della Lega. In uno punto di, non so, serenità, in uno sprazzo di lucida analisi anche della Lega, ha detto: la Lega Nord all'inizio era percepita come un movimento xenofobo e razzista. Beh, è un messaggio che non condivido, ma un po' non lo nascondo. Su questo ci abbiamo marciato dopo che si è scoperto che aumentavano i consensi. Cioè, Maroni ammette: noi finti razzisti per cuccare voti, così titola Libero, il bluff della Lega, finti razzisti per prendere voti. Insomma, dice Maroni aggiungendo, io non sono un baluba, ma difendo i baluba della Lega, cioè quelli con la barba e le corna, no? Quelli che nelle manifestazioni mettono le barbe verdi, gli elmetti con le corna da celti, da unni, non lo so. C'è il cervello, c'è il cuore e c'è la pancia. Dobbiamo tenere insieme tutto, è molto faticoso, ma mi sono spesso dissociato da affermazioni che non condividevo. A me, insomma, la confessione di Maroni sulla xenofobia, ci abbiamo marciato perché aumentava i consensi tra i baluba con le corna. Così Francesco Specchia su Libero fa un'analisi su questo. A proposito di partiti, tra l'altro, noi parleremo della proposta che c'è da 2 o 3 giorni, proprio il quotidiano Libero l'ha lanciata, sull'onda della lotta agli sprechi e ai costi della politica. È questa: hanno un tesoretto nelle proprie casse i partiti, tra l'altro soldi nostri, cioè il finanziamento pubblico dei partiti. Monti inizi da lì, una bella patrimoniale sui partiti, su quello che hanno nelle loro casse. E tra l'altro, quello che si legge in questi giorni, insomma, con la vicenda dell'ex tesoriere della Margherita, Lusi, no? Anche oggi 2 pagine, la Margherita chiede 10 milioni di risarcimento a Lusi per qualche intervista. La dura vita del tesoriere considerato integerrimo, pagina 9 della Stampa, Francesco Grignetti riepiloga tutte le spese che sono uscite sui giornali. Tutti si chiedono come sia possibile che un uomo solo abbia potuto fare tutto questo. Comunque, 218.000 euro tra alberghi, aerei, treni, autisti, vacanze e resort nel solo 2011. 218.000 euro. Rimasti di stucco poi i responsabili del partito quando si è scoperto, vabbè, ormai diventati celebri, 180 euro per il piatto di spaghettini al caviale. Il 9 novembre con la carta di credito ha saldato un conto da 2.100 euro. Il 17 dicembre altro pranzetto da favola, 2 antipasti di mare, 240 euro. 240 euro per 2 antipasti di mare. Crudité, voglio sperare. Sta di fatto che ne parleremo poi alle 8.30. In rapida analisi segnalo che il Fatto Quotidiano continua la vicenda dell'Utri in prima pagina. Tra l'altro c'è un articolo che vi segnalo alla lettura di Nando Dalla Chiesa, figlio del generale Dalla Chiesa, che a pagina 3 racconta chi è il giudice Aldo Grassi che ha annullato la sentenza d'appello su Marcello Dell'Utri. Nando Dalla Chiesa inizia così: santi Dio la memoria, cos'è non averla? E racconta che Aldo Grassi era il numero 2 della procura di Catania, quando il numero 1 era Giulio Cesare Di Natale, all'epoca in cui a Palermo, anni 70-80, si uccidevano i giudici Cesare Terranova, Gaetano Costa, Rocco Chinnici, e invece a Catania, per il patto dei cavalieri, non si uccideva nessuno. Scrive Nando Dalla Chiesa: un patto che fu denunciato da Pippo Fava e che per questo fu ucciso, Pippo Fava nel 1984. Ebbene, lì a Catania, sulla giustizia, c'era un macigno che bloccava tutto. Questo macigno aveva dei nomi: il primo, quello di Giulio Cesare Di Natale, il secondo, appunto, quello di Aldo Grassi, soprannominato Beddi Capeddi. Gli ispettori mossero al dottor Grassi una quantità sterminata di addebiti, ritardi nella trattazione del processo per l'omicidio del procuratore Costa, aver accumulato lentezze intollerabili, sospette nei procedimenti a carico dei cavalieri. Insomma, questo è per Nando Dalla Chiesa, il giudice che oggi ha annullato la sentenza d'appello su Marcello Dell'Utri. A che ora devo chiudere? Faccio cenno a Carmelo che si sa, tra 3 minuti. Benissimo. E allora, intanto c'è tutta la vicenda sulle nozze gay. A questo punto forse ce ne dovremo occupare. Ora l'Europa vuole imporci le nozze gay. Questo è il titolo del giornale che in prima pagina titola: hanno vinto i gay. Il Parlamento di Strasburgo ieri ha chiesto il riconoscimento delle nozze omosessuali in tutti i paesi. L'hanno definita una provocazione, uno slogan da campagna elettorale. Eppure il no di Angelino Alfano ai matrimoni gay è divenuto ieri di stretta attualità, scrive Pierfrancesco Borgia, pagina 5. A Strasburgo l'Assemblea plenaria ha bocciato un emendamento del Partito Popolare Europeo che chiedeva di respingere alcuni passaggi del rapporto presentato da una deputata straniera danese sulla discriminazione sessuale e su come combatterla. Sta di fatto che, insomma, il Parlamento chiede il riconoscimento delle unioni omosessuali in tutti i paesi. Anche Avvenire titola da Strasburgo: nuovo spot all'unione tra gay. Per la stampa, unioni e diritti, svolta dell'Unione Europea, la famiglia è anche gay. Segnalo l'intervista al direttore generale della RAI, Lorenza Lei, sul Sole 24 Ore, pagina 19, ora più cultura con le risorse interne, così trovate tutto a pagina 19. Devo chiudere velocemente perché ieri c'è stato il calcio, mi dicono, Inter fuori, ma così no. Ah, l'Inter è uscita dalla Coppa, dalla Champions League. L'hai vista, Carmelo, la partita? No, neanch'io. Ho visto, ero su Sky, ma ho visto un film, un filmone, gran filmone, con protagonista Marlon Brando. Il giornale radio.